si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Uptown funk you up. Uptown funk you up. 'Cause uptown funk don't give it to you. 'Cause uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Ed eccoci qua, cari ascoltatori, buongiorno a tutti da Alessio Maurizi. E buongiorno e buona domenica da Carlo Gabardini. Ben ritrovati, quando sono le 8:37 minuti di domenica mattina ripartiamo con una nuova puntata di Si può fare, vi aspettiamo al nostro numero verde come sempre ogni mattina 800 24 0024. Mi volgo verso il la finestra, sole. Carlo, c'è un sole bellissimo, Milano Monterosa, un sole bellissimo. Oggi sì che si va. Oggi è proprio bella, sotto all'ingresso mi hanno detto però domani piove, però poi dopo ci sarà bello per sempre perché arriva finalmente l'estate, quindi mi hanno detto, queste sono le informazioni precise di qui di Milano Monterosa, che domani pioverà e che poi ci saranno 28 gradi. Ah, va bene, allora pensiamo a quando ci saranno di nuovo 28 gradi. Però è una domenica bellissima. Tra poco partiremo da un'inchiesta shock in Germania sugli oggetti, gli elettrodomestici programmati per rompersi il giorno dopo la fine della garanzia. Non ci sono più i frigoriferi di una volta. Non si può fare questa cosa qua, non si può proprio fare. Sono contentissimo di questa inchiesta perché se ne parla tantissimo, spessissimo si dice una volta però il forno durava 45 anni e invece adesso appena finisce la garanzia bisogna buttarlo via, quindi sono molto contento. E allora, cari ascoltatori, anche oggi, domenica, cerchiamo un personaggio della settimana e il primo che indovinerà, partendo dai nostri indizi, si porta a casa due biglietti e il catalogo della splendida mostra di Miro al MUDEC di Milano. Milano. E allora, come primo indizio che vado a darvi è questo l'indizio, il personaggio che ha una notizia che lo riguarda questa settimana ha vinto una sua battaglia. 800 24 00 24. Vai, iniziamo. Ci dicono sempre che è propaganda, propaganda, propaganda. Poi però gli 80 euro li abbiamo fatti. Poi però l'abolizione dell'IMU e della TASI, la riduzione dell'IRAP, il costo del lavoro, gli investimenti per gli incentivi sulle nuove assunzioni. Potrei continuare. Tutte misure che sono state rese possibili dal fatto che in Europa abbiamo ottenuto la flessibilità. Cioè grazie alle nostre riforme ora siamo più credibili e abbiamo dei soldi da spendere. Otterremo anche il risultato su IRPEF e cancelleremo Equitalia. Equitalia alle ore contate, ha detto Renzi. Quale notizia migliore per aprire la settimana? Notizia, un annuncio. Però insomma qualcuno ha ripreso a criticare l'annuncite di Renzi, però anche questo è un annuncio che potrà far piacere, credo... A chi? Agli evasori? Agli evasori, no, a tutti. Perché è questo che va capito. No, nel senso, figurati, Equitalia... Cioè, tasse bisogna pagare, dici tu, molte volte, insomma, ci hanno raccontato che c'erano momenti ci marcia in cui... sopra, Equitalia a volte ci ha marciato sopra. No, soprattutto sopra, essendo un ente privato, sì, a finire che per riscuotere il credito magari ti priora la casa e tutto, sì, tutte queste questioni. Però il vero problema non è che è Equitalia, il vero problema è che serve qualcuno che controlli che tutti gli italiani paghino le tasse, quindi sì, se la chiami Equitalia o se la chiami Sbabaluz non è che cambia, cioè non è che puoi smantellare Equitalia nel senso che liberi tutti, si paga se si vuole, perché se fosse così, a parte che sarebbe una notizia pessima, perché come ben sappiamo senza tasse non ci sarebbero le scuole, gli asili, l'illuminazione, niente, quindi. Ma perché non, non fanno tutti chiaro come succede a Milano? Io non lo so se lo fa soltanto Milano, però vivo qua, la multa, se la paghi subito ti fanno lo sconto, mi pare del 30%, è un incentivo notevole, sì, a togliersi di mezzo il problema, chiudi gli occhi, non ci pensi, paghi e allarghi le braccia e dici cavolo, ci sono caduto un'altra volta, però almeno hai l'incentivo dello sconto. Qua con Equitalia succedeva il contrario, te la mandavano proprio il giorno prima della scadenza in modo che poi da due minuti dopo triplicava tutto e niente. Però ti arriva partiva... nel momento che tu non paghi le tasse, quindi sì, in cui hai cercato di non pagare le tasse, poi dopo ci sono anche un sacco invece di storture per cui in realtà magari uno ha semplicemente fatto un errore e di 10 centesimi e gli viene fatta una multa carissima, questo ovviamente è un problema. problema. Quello che dico io non è una questione su Equitalia, quello che dico è eliminare Equitalia significa poco nel momento che il vero problema è l'evasione fiscale e bisogna trovare il modo per far pagare queste tasse. Poi se c'è un modo più gentile e invece che chiamarla Equitalia la vogliamo chiamare Italia Equa, va bene. No, Sbabaluz mi piaceva di più. Allora, sentiamo anche Marchini. Marchini pizzicato sulla famosissima Ferrari. E poi, cari ascoltatori, 800 24 00 24, ve lo ricordo, cerchiamo un personaggio della settimana che ha vinto una battaglia. Non ostentare non è più sufficiente. Bisogna rinunciare a quei privilegi. Poi, quindi fine, a questo punto vende la sua Ferrari, ragazzi, una Ferrari grigia, bellissima. Sì, ma che purtroppo uso poco. Però vede, la sensibilità... Però non la venderà la Ferrari. Sì, sì, sì, no. Io con i ragazzi abbiamo deciso... Ma sì, perché è veramente così. Cioè, i privilegi nella politica sono qualcosa che non ti puoi permettere. Stasera mi butto, stasera mi butto con te. E faccio di tutto, e faccio di tutto per stare con te. E allora diamo la buona domenica anche a Rossano Ercolini from Capannori. Buongiorno. Buongiorno Rossano, questa volta veramente in collegamento da Capannori. Non sei in una delle tante città italiane dove normalmente vai nei weekend per portare il verbo di e zero. Nemmeno in treno, quindi. E nemmeno in treno, ma no. Sei a Capannori perché c'è un importante meeting, e questa volta è europeo, delle città sui zero rifiuti. In quanti siete? Quante città sono rappresentate? Intanto diciamo quante sono, Rossano, in Italia le città che vi stanno venendo dietro? Allora, l'ultima è stata Lucera, sono 228 i comuni italiani che hanno adottato la delibera rifiuti zero. E non sono pochi, Invece in questi tre giorni che si concludono oggi a Capannori, di cui Radio 24 si può fare all'onore di essere anche media partner di questo importante evento, che si svolge nella piccola Capannori, che però è il motore un po' di tutta questa faccenda, adesso ci racconterai, però vogliamo sottoporti questa notizia, Rossano. C'è questa inchiesta shock che viene dalla Germania, l'hanno fatta i Verdi tedeschi, che dice che gli elettrodomestici sostanzialmente sono programmati per rompersi il giorno dopo la fine della garanzia. Tu che voi che a Capannori i rifiuti proprio li studiate, no? Te l'aspettavi una cosa così? Ma ovviamente sì, diciamo che probabilmente non è qualcosa di dichiarato, perché sarebbe assolutamente illegale, però è la famosa obsolescenza programmata o pianificata, per cui i produttori invece di mettere sul mercato dei consumi prodotti che durano una vita, preferiscono sfornare prodotti che durano poco tempo per poi tornare alla carica, poterli rivendere, eccetera. Però piuttosto che da un punto di vista tecnico, perché ripeto, è un reato, tra l'altro nel 2014 la Francia ha emesso proprio una normativa che se un'azienda è pizzicata nel truccare o nel forzare la durata del ciclo di vita di un prodotto, è passibile addirittura di arresto. Il problema viene aggirato nei termini dell'ultima generazione, il nuovo telefonino, per cui chi ha il vecchio, anche se funziona pienamente, sembra uno stupido. Quindi più che altro è il mondo della pubblicità, è il mondo del marketing che applicano quel principio informale dell'obsolescenza programmata della durata di vita dei prodotti. Però quindi... scusa Rossano, nel senso che giustamente tu dici, se un'azienda viene pizzicata a modificare, a far sì che i propri prodotti durino meno di quello che dovrebbero, viene punita. Però è un dato di fatto, è un po' d'anziano dirlo, ma è così, è un dato di fatto che gli elettrodomestici di 50 anni fa duravano tantissimo e io ho ancora a casa il frigorifero di mia nonna che raffredda pochissimo, devo ammettere, però non importa, e oggi invece durano un quinto, un decimo del tempo, quindi pizzicati o non pizzicati qualche cosa sta succedendo. Ah no, certamente, prendiamo il fenomeno delle stampanti, per cui dal punto di vista tecnico in molti casi i computer, i rifiuti elettrici e elettronici in generale, magari non totalmente in generale, è possibile ripararli, però vengono adoperati degli accorgimenti che sono di tipo commerciale, per cui costa più la riparazione che esatto. comprare tutto l'intero insieme. Ma questo avviene anche nell'industria automobilistica, c'è una famosa industria automobilistica francese che ha messo sul mercato le luci a LED, ma se si rompe il pezzo localizzato bisogna cambiare tutto l'insieme. Certo. Questa è la vera follia dei rifiuti. Semmai bisognerebbe che i rispettivi garanti della pubblicità, dell'informazione e del mercato intervenissero in modo più assiduo per tutelare i consumatori, e forse anche le associazioni dei consumatori, devo dire la verità, dovrebbero un pochino essere più vigili da questo punto di vista e chiedere anche spazi informativi nei mass media che arrivano a milioni di... Noi ci siamo per quello che conta. Ma voi ci siete sempre, tra l'altro devo dire che il vostro è un contributo prezioso, un grazie assolutamente di cuore per la sponsorizzazione all'iniziativa del meeting europeo delle città rifiuti zero. Siete arrivati a moltissime persone, ma ci vorrebbe la moltiplicazione dei pani e dei pesci, perché milioni e milioni di persone speriamo di essere di anche contagiosi, speriamo la di moltiplicazione esserlo. Delle trasmissioni radiofoniche, esatto. fatemi fare il traffico, torniamo tra un attimo a Capanno di Colossano Ercolino. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno e ben ritrovati da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno e buona domenica. In collegamento telefonico con noi da Capanno di Rossano Ercolini, che sta conducendo questa 3 giorni di zero rifiuti nella città, possiamo dirlo, guida in Italia e forse anche in Europa di questo movimento, di questa tendenza. Ci sono le aziende, come denuncia l'inchiesta dei Verdi tedeschi, che programmano i loro elettrodomestici per farli morire il giorno dopo che finisce la garanzia, o quelle, come per citarne una, la Apple o gli altri produttori di telefonini, che con gli aggiornamenti ti fregano e ti spingono a comprare quello nuovo. Ma ci sono anche le aziende, ed è questo che state facendo voi, che le state premiando, che invece rispettano proprio l'ambiente, producono in modo nuovo, innovativo, prodotti che durano e che addirittura nascono a volte anche dai rifiuti. Abbiamo raccontato spesso il caso del caffè, delle capsule del caffè che voi avete contribuito a rendere ecosostenibile. Oggi però a Capannori volete premiare un caso o più d'uno, forse aziendale, ce ne vuoi parlare, Rossano? Sì, sono 12 imprese, ovviamente non solo del settore manifatturiero, ma anche del settore commerciale, del settore agricolo, e che ci propongono un'Italia davvero fervida, davvero creativa, davvero interessante, che verso la quale bisognerebbe assolutamente rivolgere i complimenti, i ringraziamenti, gli investimenti. Per esempio, giustamente facevi riferimento al nostro caso studio, il più famoso, sulle capsule del caffè. Verrà premiato l'ingegnere degli esposti, Gabriele degli Esposti, che ha inventato una capsula edibile, cioè che si può mangiare. È una capsula del caffè, un clone Nespresso o Lavazza, interamente in fibra cellulosica da cascame di canna da zucchero, quindi di cellulosa di uno scarto di un processo produttivo, che viene tenuta insieme attraverso una resina interamente naturale, che fa sì che una volta che si è consumato il caffè, in teoria te lo puoi mangiare, ma non certo perché sia mangiabile, nel senso, no, buono, certo. Ma è commestibile, ma bisogna farla buona. Bisogna fare al gusto di biscotto, è perfetto. Così uno la intinge dentro. Il nostro modello di imballaggio è il cono gelato, per certo. Cui è l'imballaggio più geniale inventato dagli italiani, per esempio. Quindi il modello è quello. E tra l'altro, a differenza delle bio capsule che hanno varato altre importanti, positivamente, altre aziende del settore, questa è autocompostabile. Lo puoi mettere nel tuo composter del giardino, a differenza della bioflora. plastica che ha bisogno di un trattamento di compostaggio industriale più lungo, che non può avvenire attraverso è il tutto questo grazie al centro studi rifiuti di Capannori. Ascoltatori, capite la capsula commestibile è stupenda, la cosa stupenda, straordinaria che avviene a Capannori. Certamente grazie a Gabriele degli Esposti, sì, ma certamente grazie anche al dinamismo che il centro alla testardaggine di Capannori, fatemelo dire, guardate, ve lo dico, 20.000 euro in 6 anni di budget il nostro centro di ricerca, con questi 20.000 proprio low budget, come si dice, basso budget, siamo riusciti a promuovere dei momenti di informazione, dei momenti di sensibilizzazione che, dal mio punto di vista, ovviamente io sono parte coinvolta, quindi forse sono anche esagerato, però le università dovrebbero studiare come il sapere in certi momenti diventa un sapere contagioso. Invece hai fatto benissimo a ricordare questa cosa, al fatto che il budget è di 20.000 euro in 6 anni, perché magari uno si immagina sempre, vabbè, ma chissà, avranno i soldi per studiare. No, no, è proprio il fatto di desiderare, di trovare una soluzione. Di fare le cose. Sì, allora, io faccio io l'elenco delle aziende che sono in ballottaggio: l'Associazione Rondine di Arezzo, Biodistretto di Montalbano, di Firenze, Centro di Ricerca Lucenze, Lucca e di Lana di Cagliari, Green Italy di Torino, Hacking Labs di Lucca, Kenesis Catania, Manifattura Maiano Prato, Made in Med Bologna, RAE Cycle Siracusa, Selene Lucca e Toner Lab di Livorno. Fatto così perché dobbiamo chiudere, però Rossano, la prossima volta che ci sentiamo ci racconti meglio anche il caso che avete deciso di premiare e le sue particolarità. Io intanto ti ringrazio, vi mandiamo un abbraccio, buon lavoro. La prossima volta facciamo la trasmissione direttamente da Capannori, io non vedo l'ora. Sarebbe bellissimo, a presto. A presto, ciao, ciao. Ciao a tutti. E allora, dobbiamo chiudere, però abbiamo spazio brevissimo per sentire almeno un ascoltatore. Elena da Monza, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Chiamavo per il personaggio. Prego. Chi è? Ho pensato potesse essere Mario Mori, che è stato assolto dopo 10 anni per la questione del mancato... blitz sulla cattura di Provenzano. È una notizia importante, in effetti, di questa settimana, e sicuramente Mori, da questo punto di vista, ha vinto esattamente la sua battaglia, ma non era il nostro personaggio. Esattamente lui. Grazie Elena. Grazie mille. Grazie per aver tentato. E andiamo con Bruno da Carpi, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Prego. Io avevo pensato a Pannella. Per il personaggio della settimana, Marco Pannella. Certo, sì. Certo. Beh, insomma, che dire di Marco Pannella? È sicuramente il personaggio della settimana, sì, forse dell'anno, forse del secolo, sì, ma non è il personaggio che avevamo scelto, perché ne abbiamo parlato lungamente ieri e ci sembrava giusto così. Ci sembrava in fondo anche troppo facile, ascoltatori, assegnare così il personaggio, perché sarebbe comunque... stato facile indovinarlo. Noi siamo un po' cattivelli, ma naturalmente Pannella è un vero ha si detto, può fare Pannella. Detto Rutelli, ne nasce uno ogni 100 anni, e in effetti sicuramente è vero. Grazie Bruno. Grazie. Proviamo anche con Raffaele da Ivrea, ce la facciamo velocissimo in 30 secondi. Raffaele, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Secondo mia moglie, che è qua vicino a me. Le mogli, bisogna sempre ascoltare le mogli, sì. Dite che il personaggio riferimento a quel soldato che è stato... Allora Raffaele, un momento, siccome non sentiamo e dobbiamo dare assolutamente la linea al giornale radio, non voglio sprecare così il suo gettone, la sua telefonata. Anche perché c'è la moglie dietro che sta dicendo, non hai dato bene la risposta, bravo, non si sente. No, poi la picchia, lo risentiamo dopo il GR, stiamo cercando, lo ripeto, un personaggio della settimana che ha vinto una sua battaglia, tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sono molte cose da scavare, molte cose che rimarranno in questa società e in questo paese, che poco lo ha riconosciuto, o meglio, molto lo ha amato, ma poco certamente ne ha riconosciuti i meriti. Marco non era un mediocre, era un grande nelle sue intuizioni e anche nelle sue debolezze. A noi radicali, ha insegnato molto, quasi tutto. A questo paese ha insegnato davvero molto. Eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati. Di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Questo è Si può fare, quando sono le 9:09. Ripartiamo e vi facciamo risentire anche un po' di notizie della settimana. Questa naturalmente era Emma Bonino che ricordava Marco Pannella e ha anche aggiunto che molti dei ricordi che in questo momento fioccano sui giornali lei li trova molto ipocriti, perché a Marco Pannella non sono stati mai in vita riconosciuti i meriti che aveva. C'è stato un grandissimo unanimità su Pannella politico. Pannella però ha fatto delle battaglie politiche che hanno diviso, lacerato, tagliato a fette l'Italia. Basta ricordare famosi referendum, insomma quelli sul divorzio, sull'aborto, eccetera, questioni di cui si discute forse anche oggi, anche se sono diritti ormai acquisiti. Acquisiti grazie a tutto quello che è stato fatto. E va bene, ascoltatori, tra l'altro è stata anche la risposta di un ascoltatore al nostro gioco, cerchiamo un personaggio della settimana, è stato fatto il nome di Marco Pannella, però diciamolo subito, non era lui il personaggio che noi andiamo cercando. Stai giustamente evitando che altri chiamino. E sprechino la loro telefonata. Esatto. Ha vinto una sua battaglia questo personaggio che andiamo cercando, tra poco sentiremo altri interventi degli ascoltatori e non possiamo non farvi sentire anche Red Ronnie sulla questione dei vaccini. Ma perché lo fai sentire? Perché in effetti ci sarebbero motivi per non farlo sentire, ma noi siamo qua a fare il riepilogo della settimana. Allora vai. Red, è obbligatorio o no vaccinare i bambini? È assolutamente demenziale. Scusa? Demenziale. Cioè, nel senso che è assurdo. Vabbè, basta questo, non puoi obbligare. Riascoltare tutta la frase, perché demenziale è Nicola Porro che invita Red Ronnie a parlare dei vaccini. Io questo è quello che penso, perché con tutto l'affetto per Nicola Porro naturalmente, perché che lo chiami a fare Red Ronnie se non a parlare di musica, sa tutto, straordinario. Allora vale tutto, no Carlo? Sì, è una sua vecchia battaglia quella dei vaccini per Red Ronnie, ma condivido assolutamente la tua posizione, nel non senso ne sa niente che lui di forse di vaccini è meglio far parlare un medico o mia nonna, anche mia nonna potrebbe parlare con gli stessi argomenti, credo, di Red Ronnie, no? Di vaccini. Sì, e in più questa è una questione molto spinosa, perché da un lato ci sono i dubbi su alcuni vaccini che forse hanno creato dei danni, dall'altro c'è un po' la follia invece di decidere di non vaccinare mai i propri figli, anche perché questo crea dei grossi problemi, perché certe malattie che sembravano debellate non lo sono più, ed è facile, lo puoi fare in un posto dove sono quasi tutti vaccinati e tu non vaccini tuo figlio perché in realtà sei protetto dagli altri bambini vaccinati. Io ma nel momento figlie, in cui tanti non si vaccinano, anche i tuoi figli che sono vaccinati rischiano. Le mie due figlie, Viola e Olga, tutte e due vaccinate, non aggiungo altro. Adesso cosa c'è da fare? No, c'è da sentire gli ascoltatori. Avevamo lasciato un ascoltatore, Raffaele da Ivrea, che voleva rispondere al personaggio della settimana. Raffaele adesso ci... Nelle grinfie della moglie l'avevamo lasciato, sì, peraltro. Sì, perché rispondeva su telecomandato praticamente, no Raffaele? Sì, pronto. Eccolo. Sì, lei sta guidando, io sono di fianco. Ah, è perfetto. Ci ha tenuto a precisare per dire, perché non accetta l'idea di essere telecomandato dalla moglie, giustamente. Ecco, bravo. L'orgoglio maschile. Non è solo telecomandato, è anche guidato dalla macchina, perché comunque è la moglie che guida, quindi mi sembra perfetto. E chiediamo scusa per l'attesa. Adesso con calma. Comunque sì, il personaggio della settimana secondo me erano un po' i parenti, quelli che hanno vinto la battaglia intentata dagli eredi di quel soldato ucciso dall'uranio impoverito. Che ha ottenuto un risarcimento, sì. Esatto, mi pare si chiami Vacca o qualcosa del genere. Hanno ottenuto un risarcimento abbastanza importante dal Ministero della Difesa con una sentenza. Grazie alla sentenza della Corte Costituzionale o... C'è stata una sentenza che è stata confermata, mi pare in appello. Sì, Raffaele, questa è una notizia importante, tra l'altro, che potrebbe aprire anche a degli altri precedenti che purtroppo ci sono stati in passato. È una notizia importante per la famiglia. Il soldato si chiamava Salvatore Vacca. Esatto, per la famiglia di Salvatore. Non era lui però il personaggio a cui avevamo pensato. Grazie Raffaele. Grazie per averci ricordato questa storia. E saluti alla moglie naturalmente, mi raccomando. Andiamo con... E non litigate, perché adesso che cosa succede? Vedi, mi hai fatto aspettare anche 20 minuti al telefono e la tua risposta era sbagliata. Parcheggia subito. Questo lui. Vi stiamo salutando ovviamente, buon viaggio. Stefania da Biella, buongiorno. Buongiorno, io ho pensato che sia Schwarzer, il maratoneta su tirolese, che era stato condannato per doping e che ha vinto l'ultima gara. Assolutamente sì, ma la gara però l'ha vinta, qui il notaio è come sempre precisissimo, la settimana scorsa, quindi non poteva essere lui il personaggio della settimana, Stefania, perché noi... Che è Alex Schwarzer. Vogliamo che ci sia una notizia negli ultimi 7 giorni, il notaio che non esiste. Mi piaceva molto l'idea. No, ha ragione, ha ragione, perché contenti. La notizia ci stava tutta, però non era lui il personaggio a cui avevamo pensato. Grazie. Arrivederci, grazie mille, abbiamo ricordato anche Schwarzer che ha tutta la storia del doping e poi c'è stato il suo rientro, alcuni compagni che dicevano non lo vogliamo perché invece poi si è riappianata. C'è rimasta la male storia. Stefania, l'ho vista un po' contrariata. Era sicura di aver vinto, era già in coda per il Mudek. Perché io dico che il notaio, ma il notaio non esiste naturalmente, cioè ne esistono tanti ma noi non abbiamo un notaio, decidiamo noi, però la risposta deve essere quella giusta naturalmente, no? E ci deve essere il criterio con cui noi scegliamo il personaggio è quello, è una notizia degli ultimi 7 giorni. Giorgio da Modena, buongiorno. Prego. Su no, cosa voleva intervenire Giorgio? Sul discorso delle affidabilità e sulle rotture programmate. Sì. Sì. Sono 20 anni insomma, che si è capita una cosa, almeno io l'ho capita perché poi l'ho messa in pratica nell'azienda, e cioè non vendo il prodotto ma vendo il servizio che questo prodotto rende. Faccio un esempio, è un po' una cosa che hanno poi capito anche quelli delle fotocopiatrici, no? Che non vendono più la macchina, ma vendono il costo della macchina per ogni fotocopiatrice. Cioè, sì. per ogni fotocopia, copia. Certo. È la stessa cosa per noi facciamo macchine per la produzione di risparmio energetico, sì. e quindi noi vendiamo, no, il prodotto risparmio energetico, quanto funziona, quanto produce quella macchina, quanti kilowattora oppure quante calorie. Ma quali sono? Cos'è una macchina per il risparmio energetico? Cioè per esempio un cogeneratore, cioè quello che produce congiuntamente energia elettrica e calore, magari consumando del biogas. Ah, certo. Ecco. E quindi voi non vendete la macchina, ma voi vendete il risparmio. Voi dite se. Noi vendiamo il risparmio. E quello che non si capisce è le aziende che vendono le automobili, per esempio, che vendono i motorini, che vendono le altre cose, non capiscono che si guadagna molto di più. Conviene molto di più investire sull'affidabilità piuttosto che sulle rotture programmate. Ma questo funziona? Magari tutti la pensassero come lei, Giorgio. No, ma mi incuriosisce. Questo funzionerebbe... Provare per credere. Ma non lo metto in dubbio, ma mi chiedevo se questo funzionerebbe anche con gli elettrodomestici. Per esempio che uno, invece che acquistare una lavatrice, acquista la possibilità di lavare di i propri panni, certo, certo. No, può acquistare le ore di funzionamento della lavatrice, un ciclo di funzionamento della macchina quanto dura? 2 ore? 1 ora e mezza? Dipende dal tipo di lavaggio che uno programma. Io ti vendo la macchina a ore di funzionamento, quindi io faccio l'investimento nel progettare e nel realizzare la macchina e nel mantenerla, certo, la macchina, sulla durata della vita. E sono sicuro... È una cosa che si può fare sugli impianti complessi, perché non lo si può fare anche sui piccoli impianti. Certo. L'Enel, d'altronde, facciamo un esempio che tutti conoscono. No, dobbiamo dare la linea al traffico, Giorgio, purtroppo devo togliere la parola. Perché però è una bellissima storia, anche perché io per esempio sono in affitto e praticamente funziona così, perché la lavatrice è della mia padrona di casa e quindi effettivamente se si rompe la ripara lei, quindi io pago l'affitto. Traffico. E allora, adesso è arrivato il momento di parlare di scuola e abbiamo il piacere e l'onore di avere in collegamento con noi niente proprio di meno che il ministro Stefania Giannini, ministro di istruzione. Buongiorno, buona domenica. Buongiorno, buongiorno a lei. Buongiorno. Benvenuta, benvenuta. Allora, mi faccia solo dare un'informazione di servizio per i nostri ascoltatori, certo. Perché noi stiamo giocando con loro, stiamo cercando un personaggio della settimana. Aggiungiamo un indizio, Carlo, e diciamo che ha fatto il giro del web questa notizia, quindi ascoltatori all'800 24 00 24, aguzzate l'ingegno. Ministro, allora cominciamo con l'iniziativa importante di domani, 23 maggio, anniversario della strage di Capaci nel 1992, quando la mafia uccise Giovanni Falcone, il giudice, sua moglie e i tre uomini della scorta. Cosa accadrà domani e perché e come sono coinvolte le scuole italiane in questa giornata importante di ricordo? Ma domani Palermo chiamerà l'Italia, questo è l'hashtag Palermo chiama Italia, che parte dall'aula bunker. Questa non è una novità, ma la novità è che domani 50.000 ragazzi in tutta Italia saranno direttamente coinvolti in 8 piazze che vanno dal nord al sud, da Milano a Potenza, per testimoniare che il ricordo è fondamentale. Chiaramente i ragazzi che oggi sono a scuola, dalla primaria fino alla scuola superiore, non c'erano quel 23 maggio del 92, molto spesso... Stati bocciati veramente molto spesso. Sì, e i loro genitori, se c'erano, molto spesso erano ragazzini, e quindi noi pensiamo che il ricordo, la memoria sia il primo passo, e ogni anno il Ministero dell'Istruzione insieme alla Fondazione Giovanni Francesca Falcone organizza questa importante manifestazione che coinvolge anche le istituzioni che sono naturalmente coinvolte. Domani con me ci sarà il Ministro Orlando, ci sarà il Presidente Roberti della Direzione Nazionale Antimafia, insomma tutto quel mondo che della lotta alla mafia ha fatto nel corso degli anni una missione preziosa per il Paese. Però non basta, mi lasci dire, noi sappiamo che non basta, e noi durante tutto l'anno facciamo un'attività costante, meno appariscente, diciamo, ecco, meno sotto i riflettori, con meno hashtag. Con meno hashtag, ma con molta incisività. Le posso garantire che è impressionante. Mi è capitato ormai in questi 2 anni e mezzo di visita e di costante contatto con le scuole italiane di vedere quanto sia attenta e vigile la voglia dei ragazzi di capire che cosa è successo in quegli anni e qual è la ferita che purtroppo in qualche caso è ancora aperta nella storia del nostro paese. Quindi credo che sia una giornata importantissima e noi ce la mettiamo tutti. Bene, molto importante, abbiamo voluto ricordarlo subito in apertura. Adesso però parliamo un pochino di scuola. Noi siamo Si può fare, il programma a cui piacciono le iniziative, le proposte per migliorare le cose. Non entro nel merito della buona scuola, c'è stato uno sciopero ancora un paio di giorni fa, magari ne parliamo dopo, però voglio partire da questo progetto che riguarda la scuola al centro. A noi è sembrato importante che la scuola possa diventare un centro di aggregazione dove ci sono il cittadino può avere informazioni, ci può essere un assistente sociale che aiuta, si possono fare attività extra scolastiche, e quindi quando abbiamo saputo di questo progetto in cui il governo finanzia un progetto che si chiama Scuola al Centro e che ha proprio questo obiettivo, ci è sembrato molto bello, importante. Una buonissima notizia. Stanziati 10 milioni, non sono tantissimi, ministro, per fare che cosa in alcune città italiane? Per fare quello che la scuola ci chiede, in molti quartieri, in molte aree del paese in cui la scuola è veramente l'ultimo presidio di fronte a situazioni di degrado sociale, di disagio, che qualche volta i ragazzi li lasciano veramente per strada, e quando i ragazzi stanno per strada noi sappiamo che il passo è breve verso l'ingresso in altri mondi, o quello della criminalità organizzata, o quello comunque di una vita ai margini. E noi vogliamo, perché sappiamo che la scuola è il centro della comunità, che la scuola concretamente possa svolgere questa funzione. Siamo partiti dal richiamo dal basso, lo voglio ricordare, perché l'idea e la visione di scuola così come la stiamo presentando in questo momento è alla base della legge e della visione del governo. ma non facciamo cose che scendono dall'alto, perché le cose che scendono dall'alto poi di solito cascano lì e non hanno sviluppi. Napoli, si ricorderà, qualche settimana fa ha avuto degli episodi drammatici, c'è stato un richiamo di un'associazione che è molto attiva, guidata da Don Loffredo, Popoli in Cammino, che ha detto: svegliatevi, dateci strumenti, aiutateci a aiutare i ragazzi e le loro famiglie, che molto spesso sono frammentate o disastrate. E allora noi siamo partiti da lì, 10 milioni, come diceva lei, partendo dalle quattro città che hanno aree di dispersione scolastica, fuori dai tecnicismi, ragazzi che perdiamo, che non vanno più a scuola, soprattutto a partire dalle prime classi o della fine delle medie o dell'inizio delle superiori, e strumenti per poterle tenere aperte. Ma sia chiaro, non è un doposcuola, è mandare educatori che possano fare attività sportive, attività musicali, insomma tutto quello che chi non ha famiglia alle spalle, che queste attività riescono a dare ai propri figli in altro modo, E che tra l'altro, se posso, Ministro, paradossalmente nei quartieri dove magari le scuole hanno già un po' più di risorse per vari motivi, nei quartieri magari migliori, non proprio quelli periferici, già a volte proprio per paradosso questa cosa già succede, quindi importante farlo soprattutto nelle periferie. Certo, soprattutto nelle periferie, anche se il nostro concetto di periferia non è solo geografico, ma è proprio di marginalità, perché lei pensa a Rione Sanità, no? Penso a quello, perché è nato da lì, è nel centro, nel cuore del centro storico di Napoli, eppure è un quartiere che... Sì, non è un concetto geografico, non direi. Non è un concetto geografico, è un concetto appunto culturale e sociale. Però si tratta quindi di tenere aperte le scuole, ma siccome ieri abbiamo parlato della petizione che chiedeva di tenere aperte le scuole anche giugno e un pezzo di luglio, in realtà questo non si tratta di continuare con le normali lezioni, ma no, di far sì che la scuola diventi una sorta di centro culturale nella quale gli studenti possono continuare anche a giugno, anche a luglio, anche a settembre, a trovare un punto di riferimento. È un centro di aggregazione, sa, la scuola insieme alla famiglia, ripeto, e non sempre purtroppo, in tante situazioni la famiglia è presidio, no? Di rifugio e di crescita per i ragazzi, per mille complessità che conosciamo, la scuola deve poter svolgere questa funzione, noi ci crediamo fortemente. Il progetto riguarda Milano, Roma, Napoli, Palermo in questa fase estiva, ma voglio ricordarlo, poiché se le cose non hanno di questo genere, non hanno continuità, poi rischiano per restare begli poco utili sulle cronache, ecco, di storia della scuola italiana. Non vogliamo questo, noi stanzieremo su fondi europei che possono essere destinati a questa attività 140 milioni, che quindi ci consentiranno dal prossimo anno scolastico di fare una mappatura nazionale e vedere, andare a pescare tutte le situazioni in cui la dispersione scolastica è altissima e dove c'è un'emergenza che va curata con una terapia lunga, controllata e che sia anche poi valutata nei risultati passo passo. Senta, ma sarebbe, tornando a quello che diceva Carlo prima, a questa petizione che chiede ancora una volta alla scuola di accorciare un po' le vacanze scolastiche, arrivare almeno fino al 30 giugno per andare incontro anche alle esigenze dei genitori che non sanno banalmente dove piazzare i figli, ed è sicuramente un problema. Poi ci sono altre considerazioni di tipo pedagogico sul fatto di fare o meno tante settimane di vacanza. È proprio inimmaginabile che si possa arrivare. L'orario scolastico, voglio ricordarlo, in Italia come negli altri paesi non è messo lì a caso, no? Sono un certo numero di ore che vanno rispettate e che non devono essere nemmeno superate, perché insomma l'attività didattica propriamente detta e tutto quello che si fa a scuola secondo il normale calendario scolastico risponde appunto a dei criteri pedagogici molto precisi, quindi non si può allungarlo o diminuirlo a fisarmonica a piacere. Chiaramente ci sono paesi che le vacanze le dosano diversamente, io penso alla Francia che ogni 3-4 settimane fa un periodo di pausa e poi però ha una pausa estiva. Ma lei ha una preferenza personalmente, essendo comunque che nel mondo della scuola e dell'università ci sta da sempre, ha una sua idea personale su io questo? Io credo che insomma prima di fare considerazioni di merito su questa questione bisogna affrontarla con molta serietà, perché c'è in ballo insomma l'esito e in questo caso la riuscita dei nostri ragazzi, la loro crescita culturale, l'Italia è un paese che non a caso ha privilegiato sempre le vacanze estive, perché insomma, siamo nel Mediterraneo, abbiamo un certo fattore climatico, no? Ci sono paesi che prediligono le vacanze invernali perché sono anche legate al ritmo di quella società. Quindi è un capitolo che si può discutere naturalmente, ma in questo momento forse l'esigenza che spingeva, ecco, quella petizione è quella che diceva lei all'inizio, cioè dateci a scuola, no, un'opportunità in più. Sì. Ecco, quindi in qualche modo scuola al centro, lei dice, è già una risposta a questo bisogno. Non nasce per quello, sia ben chiaro, nasce per quello un'altra idea di scuola, che io voglio ricordarla, è proprio il nucleo della legge buona scuola, verrà capito col tempo, perché poi col tempo le cose, come si vede in questo primo anno, maturano. E cioè l'autonomia scolastica, le scuole hanno tutto sommato una loro possibilità a questo punto di gestire anche le attività extracurricolari, di integrazione, no, del calendario ordinario, e quindi ci possono essere senz'altro dei casi in cui una scuola, un plesso, un'area diciamo provinciale decide autonomamente di venire incontro. Ah, certo, quindi noi che stiamo a Milano, che non abbiamo il mare, sicuramente andremo avanti a scuola fino al 10 agosto e poi ci date una settimanella. Non lo dica, che poi se no domani è notizia di prima pagina. Senta, ministro, a quasi un anno a questo punto, manca poco, insomma, dall'approvazione della buona scuola a cui lei pure... manca poco, 16 di luglio. Esatto, faceva riferimento. Ci sono state ancora delle manifestazioni, gli insegnanti chiedono la questione del contratto, sono tante le richieste. Quello prescinde, mi sembra, no, da ogni legge, il rinnovo del contratto. No, ma quello che le volevo chiedere è se ha la sensazione, per esempio sulla questione dell'assunzione dei precari, c'è stata la questione in Lombardia particolare, forse in questa regione, degli insegnanti di sostegno, perché se ho capito bene è successo che con l'assunzione di molti precari che prima facevano funzioni, chi l'insegnante di sostegno, chi l'insegnante di lingua inglese o altre funzioni specifiche, una volta assunti sono entrati in ruolo, i ruoli ordinari, e si sono però poi perse alcune di quelle funzioni, per esempio il sostegno in alcune scuole in Lombardia. C'è un concorso in atto, lo voglio ricordare, per 63.712 posizioni di ruolo nella scuola, è un numero impressionante, dobbiamo riconoscerlo oggettivamente, è un numero che darà per la prima volta nella storia della scuola italiana insegnanti di sostegno assunti per concorso. Questo è importante dirlo. Che ci sia una specializzazione, perché il sostegno è, intendiamoci, come cultura della disabilità, della didattica che tiene conto che nelle classi ci sono bambini che hanno diversi tipi di bisogno di apprendimento, e tutti gli insegnanti vogliamo che siano preparati. Cioè, la scuola italiana è molto avanzata sotto questo profilo, è già molto avanzata, ma non è che perché siamo partiti presto con una legge della senatrice Falcucci, non ancora ministro, nel 1971, dobbiamo restare lì. Noi vogliamo andare avanti ed è quello che abbiamo fatto con questa legge. Però chi fa l'insegnante di sostegno è bene che lo faccia con una preparazione specifica, con delle specializzazioni anche settoriali, pensi alla lingua dei segni, pensi alla lingua a quello che serve in tanti tipi di disturbo o comunque qualche volta anche di forte disabilità. E allora tutto questo lo stiamo facendo, verrà in numeri e in qualità evidente sui banchi di scuola a partire dal 1° di settembre di questo anno scolastico che inizia nel 2016. Mi pare che anche questa sia una risposta molto seria e molto qualificata. Ovviamente sulle leggi che riguardano i sistemi dell'istruzione è un universale, direi, diffuso nel mondo, come sui grandi argomenti che è sempre complesso, lei dice, intervenire. Però la domanda che io... Non è una novità, ecco, no, certamente. Però, le manifestazioni... Però in giro per le scuole si percepisce che si sta cominciando, chiaramente sempre in un rapporto dialettico, come è giusto che sia sui temi così importanti, si sta cominciando a capire quanto di buono in potenza e in atto c'è in questa legge. Benissimo, la domanda che le volevo fare era questa in realtà, cioè se non ha la sensazione, ma lei ha già risposto, che appunto quasi a un anno dall'approvazione della buona scuola, con manifestazioni che ci sono ancora, non ci sia questa sensazione che si fa un passo in avanti, per esempio anche sul tema dell'edilizia scolastica, lei ha parlato del sostegno. Quello è un passo, mi perdoni, quello è un passo e poi però se ne fa anche uno indietro. Bisogna riconoscere, quello è un passo gigantesco. Noi tutto considerato abbiamo dal 22 di febbraio, perché dico quella data perché abbiamo iniziato immediatamente, il presidente Renzi è stata la prima iniziativa che ha assunto a livello proprio di governo centrale da Palazzo Chigi, a cui naturalmente il MIUR si è immediatamente associato col proprio osservatorio nazionale. Abbiamo stanziato qualcosa come fino ad oggi 3 miliardi e 800 milioni e sono fondi che sono ancora in erogazione, che insomma stanno coprendo il territorio nazionale. Ecco, ma a proposito, questi fondi sono stanziati e i cantieri sono già aperti di questi? Sì, sono 7.000, ora non le so dire il numero all'unità, però oltre 7.000 i cantieri che sono già. Quindi possiamo dire di questo 3 miliardi e 8 sono, ce l'ha una percentuale indicativa di quanti sono già messi in cantiere questi fondi? Un terzo delle scuole, con scuole intendo naturalmente i plessi, no? Che sono oltre 22.000, quindi con differenti edifici intendo, un terzo sono già interessate, in qualche caso concluse naturalmente dai lavori di restauro. Un terzo delle scuole complessivamente o di quelle che avevano bisogno di intervento? Delle scuole. 7.000 e qualcosa, naturalmente con diversi tipi di intervento. Alcuni sono interventi piccoli, insomma, di manutenzione che però non erano state fatte. Sa, anche la bellezza serve per far imparare meglio e star meglio a scuola i nostri ragazzi. Non è un fattore secondario. Quanto a proteste, critiche, che per carità vanno sempre rispettate, credo che tutti noi, io per prima, l'abbiamo fatto con molta serietà anche in questo caso, i numeri dello sciopero di ieri mi pare che parlino da soli. 9% di insegnanti che hanno scelto di continuare la protesta, insomma, è un numero da rispettare, ma certamente non è paragonabile. Cioè lei dice, se questi sono i numeri, sono contenta, insomma. Sono oggettivi, insomma, non li inventiamo noi. Va bene, noi la ringraziamo, molto per essere stata con noi. Grazie, buona domenica. Buona domenica. Buona domenica, grazie. Allora, ascoltatori, 800 24 00 24, vi aspettiamo tra un attimo, continuiamo, cerchiamo un personaggio della settimana, qualcuno che ha fatto il giro del web e ha vinto una sfida, battaglia. Vediamo gente tanto attaccata ai gatti, ai cani, e poi lasciano senza aiutare la fame del vicino, la vicina. No, questo era Papa Francesco. Cos'è, un intervento un po' politicamente scorretto, a gamba tesa del Papa? Non cioè, lo so. Adesso gli animalisti si lamenteranno. Si sono lamentati molto per questa cosa, perché dice, perché ci dovete dire, ci dovete paragonare, dovete fare questi confronti, cosa vuol dire? Eccetera. Non lo so, tu cosa ne pensi? Io non ho cani, non ho gatti, sono un po' lontano da quel mondo, nemmeno io. Così il Papa ha voluto dire queste parole, fateci quello che vi pare, cari ascoltatori. Fosse una metafora per dire che a volte si spende in determinate cose e si potrebbero spendere dei soldi per aiutare degli altri. Ecco, la metterei più in generale, non tanto il Friskies per il gatto. Mi ricordo una volta abbiamo parlato con un prete che discettavamo sul fatto se gli animali hanno o no un'anima, cani e gatti. Ricordo. Abbiamo fatto. Non è una questione chiarissima, forse anche questo, cioè c'è una gerarchia delle anime, l'anima umana e quella degli animali vale un po' meno però qua non si sta parlando di anima, mi sembra che si sta parlando di bancomat, così a sensazione. Può darsi. Allora, ascoltatori, stiamo cercando un personaggio della settimana che ha vinto una battaglia e la sua notizia ha fatto il giro del web. Chi c'è in onda? Fulvia da Roma, buongiorno Fulvia. Ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Su cosa voleva intervenire, Fulvia? Sì. È sul gioco, appunto, sul nome, il personaggio della settimana. Chi è? E penso che sia il medico virologo, Roberto, scusa il cane, che Roberto Buriani, credo si tratti. Aveva partecipato a una trasmissione dove parlavano di vaccinazioni e non gli è stato dato spazio, e poi in realtà lo hanno rinvitato, credo ieri sera, comunque questa settimana. Beh, vincere un medico che vince una battaglia contro Red Ronnie è proprio piace vincere facile, perché oggettivamente sì, certo, come no, abbiamo anche parlato di questa notizia, il medico aveva 100.000 ragioni, Red Ronnie neanche mezza, perché non ne sa niente di quegli argomenti, quindi però il rovesciamento delle parti è andato in onda a virus, ma come succede in tantissimi, ahimè, trasmissioni televisive, lo devo dire perché se io la trovo una cosa assurda. Fulvia, tutto questo per dire, Carlo, che cosa? Che non è questa, non è questa la risposta. Ero incuriosito dal cane che cercava di rispondere lui e vorrei sentire la risposta del cane, perché sentivo che abbaiava, stava cercando di bloccarla e aveva ragione, perché non è questa la risposta che cercavamo. Però la ringraziamo moltissimo di aver chiamato. Grazie Fulvia, grazie, buona giornata. Io l'ho già detto, quella situazione la trovo paradossale, perché che senso ha invitare Red Ronnie a parlare di una cosa che non è il suo campo d'azione specifico, come è invece la musica? Lì puoi ascoltarlo per ore e puoi imparare cose straordinarie, perché è 50 anni che ci sta in mezzo. Chiamarlo a parlare dei vaccini, puoi chiamare anche mia nonna. Però è una sua battaglia, questo va sottolineato, quindi non è una cosa dire che niente, dice che per la dire? Prima volta. No, no. La sua battaglia, ma non ne sa niente. È un aggravante forse. Ah, è ecco, un aggravante, questo sì. Ah, mi dice, sono anni che persevera, sì, e chi lo intervista su queste cose persevera, si sa, sapendolo. Insomma, si conosce la sua posizione. La follia senso. Assoluta, la follia assoluta. Allora, forse abbiamo un ascoltatore ancora sul gioco, altrimenti no. Andiamo, dove andiamo? Andiamo sul traffico, è troppo presto? Leggiamo qualche sms? Parliamo di Milano Ristorazione, perché ce l'abbiamo, un'altra bella notizia. Voglio dire una cosa a proposito dell'intervista al ministro Giannini, perché vedo dei messaggi, la scuola a pezzi, la scuola, la buona scuola. Non abbiamo fatto un'intervista sul tema della buona scuola, volutamente. No, no, assolutamente. Non ci siamo preparati su quello. No, abbiamo avuto domande molto più diverse, sì. Ficcanti. Qualcosina l'abbiamo chiesto sulla questione dei precari, ha risposto, e degli insegnanti di sostegno soprattutto. Siamo partiti da questo progetto, la scuola al centro. Speriamo che il governo ci metta anche più fondi, però ci è sembrata una bella notizia. Ce l'ha detto il ministro, perché quest'anno sono 10 milioni, le città sono solamente 4, sono Roma, Napoli, Palermo e Milano, e invece per l'anno prossimo si intende avere 140 milioni e quindi fare una mappatura a livello nazionale e poi intervenire su tutto il territorio. A noi ci siamo assunti anche questo ruolo, quello di sottolineare anche qualche volta quando ci sono delle buone notizie, anche a livello di governo e di ministeri. Questa iniziativa che dà fondi alle scuole delle periferie italiane per tenerle aperte come centri di aggregazione durante l'estate ci è sembrata una buona notizia. Allora, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno ben e buona domenica. Ritrovati a tutti. Adesso digitate l'800 24 00 24 perché vi stiamo per dare il terzo indizio del personaggio. Ed è il nostro personaggio che cerchiamo, ha sfidato un politico. Dai, è facilissimo, ha sfidato un politico, la notizia ha fatto il giro del web. La sanno tutti, solo tu ascoltatore in questo momento non la sai. Girati, chiedi domanda. Io sono sempre contento perché magari non ce la si fa e quindi è la volta che andiamo noi finalmente a vedere questa mostra. She knows just what to do. I got a gal named Sue. She knows just what to do. She brought me to the east, she brought me to the west, but she's the gal that I love best. Potevamo noi avere una colonna sonora diversa da Tutti i Frutti, ecco. No, vista la notizia. La notizia gustosa, golosa, imperdibile, sa di frutta questa notizia. La rivoluzione copernicana scatta nelle scuole di Milano. Frutta a metà mattina, scuole d'infanzia, scuole materne. Che vuol dire frutta a metà mattina? Vuol dire non più a fine pasto. Non più a fine pasto. Quando uno dice vuoi un frutto e tu dici non lo voglio. Un piatto di pasta al pomodoro. Vorrei poi una torta al cioccolato. Tutti i nonni dicevano non bisogna mangiare la frutta dopo, bisogna mangiarla durante, fra un pasto e l'altro. Adesso ci siamo arrivati anche nelle scuole. Allora noi salutiamo, diamo la buona domenica a Gabriella Iacono, amministratore unico di Milano Ristorazione. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. E allora ci ritroviamo perché Milano Ristorazione un anno fa e cento ne pensa, devo dire che L'altra volta ci eravamo sentiti forse per i, cos'erano, i menù per celiaci o cose di questo genere. Avete una sensibilità, menù a chilometri zero, ne fate di cose, eh? Ah, facciamo diverse iniziative. Sentivo prima parlare appunto anche della, sì, del coinvolgimento delle scuole per quanto riguarda i temi della legalità. Abbiamo fatto regolarmente ogni anno, noi facciamo il menù di Libera Terra proprio per sensibilizzare i bambini fin da piccoli sui temi della legalità. Certo, allora ascoltatori che non andate a scuola da un po' di tempo perché siete grandicelli o che non avete figli, sappiate che questo tema del cosa si mangia a scuola, cosa mangiano i bambini nelle scuole, è un tema dibattutissimo. Io ho due figlie, una va alla scuola materna, ci sono le mamme che fanno gli assaggi, informano gli altri genitori, ci sono le opinioni più diverse, sentirete chi tranquillamente non si lamenta, chi sostiene le cose più strane, ah, le fanno mangiare i fagiolini, cose che i bambini non dovrebbero mangiare, ma come, dovresti essere contento che li fanno mangiare le verdure. Quindi le opinioni sono le più disparate. Detto questo, il progetto Frutta a metà mattina ci è sembrato quasi geniale a suo modo, ce ne parla? Ma dunque, il progetto Frutta a metà mattina è un progetto che noi avevamo già messo a punto nel 2013, poiché comporta, diciamo, un investimento molto importante, soprattutto di intervento di operatori per quanto riguarda appunto la distribuzione logistica, la preparazione, il lavaggio, la porzionatura, insomma. Cioè, tutto è abbastanza oneroso sotto il profilo organizzativo, che quindi deve anche essere ripensato. E avevamo cercato delle sponsorizzazioni. Premetto che noi siamo una società totalmente partecipata dal comune, siamo una SPA, ma di fatto siamo un organismo pubblico. Non riceviamo nessun tipo di sovvenzione, cioè lavoriamo come una qualsiasi altra impresa. E quindi abbiamo autonomia gestionale. E per fare un progetto Frutta a metà mattina, quindi ci siamo rivolti e abbiamo pensato di coinvolgere il Ministero, anche perché nelle scuole è attivo in tutta Italia, o quantomeno nelle scuole che hanno aderito al progetto, il progetto del Ministero, che è europeo, e il Ministero lo attua nelle scuole, in diverse scuole in tutta Italia, che si chiama Frutta nelle scuole, che però prevede una fornitura a spot, sono quasi 50 forniture all'anno, ha sicuramente il significato di voler promuovere il consumo della frutta. Però, ma in che senso? Che cosa serve consegnare 50, cioè 50 consegne? Ecco. No, nel senso che arriva il cesto di frutta e uno lo mette sulla cattedra? No, purtroppo non ha avuto, quantomeno a Milano, un grande successo, perché intanto è una fornitura, appunto, sono spot, solo forniture a spot. Non c'è un processo d'accompagnamento in termini di informazione agli insegnanti da poter poi comunque utilizzare per coinvolgere i bambini e le famiglie in questo progetto e far capire il grande significato del consumare la frutta a metà mattina in sostituzione di una merenda. E quindi ha avuto anche un po' di problemi in termini di consegne, spesso visto con i miei occhi, in alcune scuole non veniva nemmeno distribuita, spesso andava al macero, e quindi in virtù di queste cose che ho segnalato personalmente anche al ministro, sì, gli abbiamo proposto un progetto sostanzialmente di dirottare questi finanziamenti sulla distribuzione tutti i giorni di a metà mattina, nel senso, lo facciamo noi, la frutta è quella che noi già acquistiamo, abbiamo dei contratti di fornitura, sì, in essere con il fornitore che già acquistiamo, quindi spostare la frutta da fine pranzo a metà mattina. Ecco, però ci spiega perché è positivo, è importante, può essere positivo, può essere importante fare questo spostamento, cioè in qualche modo toglierla dalla fine del pasto e metterla a metà mattina. Qual è il cambiamento che volete provare a fare? Cambiamento è quello a tante finalità. Dunque, innanzitutto evitare che i bambini a metà mattina consumino delle tavolette di cioccolato, tavolette merendine focacce con la mortadella, ecco, l'olio di palma, e poi arrivano a pranzo che sono sazie, di conseguenza consumano di meno il pranzo sì. che poi gli viene fornito. E questa è una. Di base, e questa è una, ma di base quindi è quello di promuovere delle sane abitudini alimentari, che prevede sicuramente un maggior consumo di frutta rispetto a quanti bambini certo. normalmente ne consumano, e quindi sostanzialmente migliorare questo equilibrio della giornata alimentare dei bambini, abituarli a un gusto dato appunto da un consumo continuativo, separato dalla fornitura di altri alimenti, quindi è un gusto che viene percepito in modo puntuale in quel momento della loro giornata, e quindi ridurre alla fine poi gli sprechi alimentari, perché se i bambini arrivano a pranzo con più fame, sicuramente il pranzo lo consumano di più di quanto normalmente lo consumano a scuola, sì. al di là diciamo dei gusti. Diciamolo a bassa voce personale. Che arrivano a pranzo con fame, perché se qualcuno ci sente dico vogliono affamare i bambini. No, perché io lo ripeto, su queste cose ci sono delle sensibilità. Ma c'è un pasto in più. Ci saranno dei genitori, ci saranno dei genitori, glielo dico, che diranno ma come vogliono fare mangiare la frutta a mio figlio, come se voleste praticamente, non lo so, tagliargli una mano. Lo sappiamo, perché me lo ricordo, era successo anche nelle nostre scuole di mio figlio, dove per una sola un solo genitore non avevamo potuto nella nostra classe poter già attivare, ma le parlo di 15 anni fa, diciamo la fornitura della frutta ai bambini, ce l'avevano proposta, ma sostanza poi, ma di fatto avremo dei genitori che potranno anche non essere contenti, ma è una richiesta che ci viene dalla famiglia anche questa, per cui noi siamo abbastanza tranquilli. E poi devo dirle che già in 10 scuole primarie, in parte con la nostra collaborazione, ma in parte con la grande collaborazione di genitori e nonni, nelle scuole primarie, questa sperimentazione, questo consumo già c'è. Noi vogliamo renderlo strutturale, quindi in tutte le scuole d'infanzia, in tutte le scuole primarie, monitorare i consumi, vedere come cambia anche l'assunzione del pranzo a scuola. Bene. Ma le dico di più, tanti sì. bambini arrivano a scuola che non hanno nemmeno fatto colazione, quindi a volte i tempi sono strettissimi, certo. come in questo caso, perché noi dobbiamo chiudere, abbiamo il giornale radio tra un attimo. Grazie a Gabriella Iacono. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie per essere stato con noi. Milano Ristorazione, Rivoluzione Copernicana, frutta a metà mattina. Andiamo. Non vedo l'ora di vedere cosa succede. Ma noi adesso chiudiamo e andiamo subito a mangiare della frutta. Prima però diamo la parola a Francesco, che chiama da Venezia. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. In 30 secondi per chiudere la puntata di oggi. Alessio, il ragazzo che ha parlato all'università con la Boschi. Bando alle ciance, ha indovinato il nostro personaggio. Ha fatto 8 minuti di discorso, c'era gente che stava dormendo lì, praticamente, perché però ha avuto il coraggio di fare una domanda lunghissima alla Boschi, punto su punto, sulla riforma costituzionale, quasi un gesto pannelliano, voglio dirlo in questo senso. Tra quello e la non notizia che è diventata confinava. Notizia nel momento in cui ha fatto il giro del web. Saluti a tutti, fine. Grazie a Lorenzo Nespoli, Carmelo Lucella quest'oggi, Claudio Schiettone, Andrea Piana come sempre, ciao a tutti da Alessio Maurizio. E da Carlo Gabardini, ciao, buona domenica anche a chi ci ascolta in podcast.